Mezzanotte Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se io ho torto mi dimetto da senatore, se Grasso ha torto è un fellone e si deve dimettere, da presidente del Senato. Verdini si è arrabbiato, senatore, con lei, dica la verità, un po' sì l'abbiamo. Verdini non vuole che si parli, però gli ho detto questo momento, lui fa Cavour, io sono Garibaldi, e che di fronte alla mia onorabilità di uomo, di padre di famiglia e di professionista non c'è politica o rendita o tattica politica che mi convinca. Un vero Garibaldi, il senatore Danna Verdiniano, che è stato sospeso per 5 giorni, che saranno 5 giorni, per gli insulti sessisti nei confronti delle senatrici del Movimento 5 Stelle. Si sono visti poi i gesti, chiaramente inequivocabili, mimavano del sesso orale, quindi insomma, lui si indigna e dice di essere Garibaldi. Ma comunque lasciamo alle sue convinzioni il senatore Danna, e invece vi dico, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, brevemente quali saranno i temi centrali di questa sera, oltre naturalmente al riassunto della giornata che vi faccio sempre all'inizio. Sicuramente le unioni civili, che paiono il tema più dibattuto nel Parlamento italiano, pare che il PD abbia voluto mediare, quindi accelerare i tempi e quindi presentare un disegno di legge Cirinna bis. Cirinna, dalla deputata del PD che ha firmato questo disegno di legge, però al nuovo centrodestra, che è sempre nella maggioranza, pare non vada bene neanche questo testo, anzi si è parlato di forzatura inaccettabile. Quindi stasera qui a Effetto Notte ci saranno il sottosegretario PD Scalfarotto e la deputata del nuovo centrodestra Binetti, per parlare, ognuno naturalmente per esporre le proprie opinioni su questo argomento e capire insomma a che punto sta questo iter. E poi purtroppo c'è stato anche oggi l'ennesimo femminicidio, una bella ragazza di 20 anni che è stata uccisa nel Catanese, aveva anche lei denunciato l'ex compagno per stalking e finita, diciamo, massacrata da diverse coltellate. Lui è stato fermato a Milano, cercava di scappare in Svizzera e ha confessato in serata. E di questo parleremo con una funzionaria di polizia, perché a un certo punto uno si chiede, ma continuano questi femminicidi, e però ci sono da diverso tempo le denunce, sono aumentate le denunce da parte delle donne perseguitate, maltrattate, però che iter fa poi questa denuncia? Una volta che una donna denuncia, che cosa succede? Cosa fanno le forze dell'ordine? Bene, cercheremo di scoprirlo questa sera appunto con questa alta funzionaria di polizia. Per le vostre opinioni, lo sapete, ci sono sempre due canali privilegiati per voi, gli sms da mandare al 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666, e poi sempre lì per voi, se va a sentire la pagina Facebook di Effetto Notte, ditelo anche sempre di seguire Effetto Notte per essere aggiornati su qualsiasi notizia ad amici, conoscenti, parenti, eccetera. Adesso parto con il riassunto. L'ennesimo femminicidio, fermato a Milano l'ex compagno della ragazza massacrata a coltellate a Catania, confessa l'omicidio, lei lo aveva denunciato per stalking. Filippine, un ristoratore italiano rapito nel suo locale da un commando armato. Unioni civili, presentato un disegno di legge Cirinna bis per accelerare i tempi, ma Area Popolare Nuovo Centrodestra parla di forzatura inaccettabile. Riforme, passa l'articolo 21 sull'elezione del capo dello Stato, no del Movimento 5 Stelle, e la Lega lascia l'aula. Le polemiche sulle spese di Marino, restituisco 20.000 euro a Roma, dice basta carta di credito ma vado avanti. Medio Oriente, ancora violenza, Gerusalemme è emergenza nella città vecchia. L'ospedale bombardato in Afghanistan, Obama chiama Medici Senza Frontiere e chiede scusa. Rapporto di Terre des Hommes, omicidi, stupri, abusi, più dell'80% delle vittime dei reati sessuali è di sesso femminile, nel mondo muore una bimba ogni 10 minuti. Emergenza migranti, intervento congiunto all'Europarlamento di Merkel e Hollande, Italia e Grecia non vanno lasciate sole, dicono, e Dublino va superato. Nobel per la chimica, il premio agli scienziati che hanno scoperto la cassetta degli attrezzi che dentro le cellule ripara il DNA. Partiamo quindi, vi dicevo, da questo nuovo ennesimo femminicidio. È stato fermato a Milano l'ex compagno della ragazza uccisa vicino Catania, ha confessato. Come una beffa, l'udienza era stata appena rinviata nella speranza di un accordo. In quegli stessi minuti lei veniva uccisa e il suo ex provava la fuga verso l'estero. Uccisa nel giorno in cui il Viminale annunciava la diminuzione dei femminicidi. L'hanno trovata senza vita nella sua auto, Giordana Di Stefano, 20 anni e una figlia avuta 5 anni prima dal suo futuro stalker. Per lei aveva lasciato la scuola, per lei aveva sopportato anche chi continuava a sgretolare la sua autostima, scriveva su Facebook. Si lasciavano e si prendevano. Giordana e Luca Priolo, 24 anni. Lui le mandava continuamente messaggi, si faceva trovare sotto casa, ma quando gli appostamenti sono diventati troppi, lei l'ha denunciato 2 anni fa. Nel primo giorno di udienza preliminare, però, Giordana è stata uccisa e dopo mezza giornata di ricerche, il suo ex è stato fermato a Milano, alla stazione, prima che prendesse un treno verso l'Europa. E dire che i femminicidi sono in leggero calo. 74 nel primo trimestre del 2015, 5 in meno dell'anno prima. Diminuiscono di più gli atti persecutori, meno 21%, e le violenze sessuali, meno 18%. Segno, secondo il ministro dell'Interno, che le leggi e la prevenzione funzionano. Ma Giordana di tutto questo non si è resa conto. Raffaella Calandra, Radio 24, Sulle 24 Ore. E adesso nelle Filippine, dove è stato rapito un ex missionario italiano ed è il quarto straniero in 2 settimane nel paese asiatico. Siamo nel sud delle Filippine, a Dipolog, città costiera nota per la presenza di gruppi ribelli musulmani, parte di una guerriglia separatista per ricavare maggiore autonomia nella penisola a maggioranza cattolica. In questo contesto Rolando Del Torchio, 56 anni, originario di Angera, in provincia di Varese, è stato rapito da 7 ignoti. La notizia è stata confermata dalla Farnesina e la polizia locale riferisce che i 7 uomini si sarebbero introdotti nella pizzeria di Del Torchio, l'Our Choice Café, armati e fingendosi dei clienti. Il gruppo è stato poi visto abbandonare la città su un motoscafo diretto verso l'isola di Iolo. Del Torchio è il quarto straniero ad essere stato rapito nella regione nelle ultime 2 settimane. A quanto sembra, infatti, nella zona sono presenti bande criminali che si finanziano anche con il rapimento di turisti e cittadini stranieri. L'italiano è un ex missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere che, pur avendo abbandonato la tunica, non aveva lasciato la penisola. Amava le Filippine, raccontano i cugini dall'Italia. Era ben integrato con il paese. Da diversi anni, infatti, collaborava con un'organizzazione non governativa che forniva assistenza agli agricoltori della zona. Federica Frola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso questo rapporto di Terre des Hommes, omicidi, stupri, abusi, quando la violenza colpisce le bambine, secondo i dati appunto di Terre des Hommes, le vittime dei reati sessuali sono di sesso femminile in oltre l'80% dei casi. Si parla proprio anche dell'Italia, un bollettino di guerra dai numeri in costante crescita, quello dei minori vittime di reati in Italia. L'anno scorso 5.356, un record, con l'80% di sesso femminile, appunto, vittime di abusi sessuali e di violenza. E anche per quanto riguarda il panorama internazionale non ci sono scenari migliori. Nel mondo, si legge nel dossier, circa 70 milioni di ragazze tra i 15 e i 19 anni subiscono abusi e violenze fisiche che ogni anno provocano circa 60.000 decessi, una morte ogni 10 minuti. Siamo alla politica italiana, è passato l'articolo 21 relativo alla riforma del Senato. Adesso la strada è tutta in discesa per il disegno di legge sulle riforme costituzionali. Approvato l'articolo 21, quello che riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica, dopo l'accordo trovato all'interno del PD con 160 sì, 3 no e 5 astenuti. Le opposizioni non votano, soddisfatti invece i dissidenti Dem. Così Miguel Gotor. Siamo molto soddisfatti che sul Presidente della Repubblica sia confermato il testo uscito dalla Camera, perché bisognava evitare che il vincitore del premio di maggioranza potesse eleggere da solo quasi il Presidente della Repubblica. Così ci vorrà invece una maggioranza ampiamente qualificata. Opposizioni divise invece sull'appello al Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il Movimento 5 Stelle ha già scritto al Quirinale il 18 settembre, mentre adesso è toccata a Forza Italia. Ma dal collo più alto il Presidente sembra per il momento non intenzionato a rispondere alle missive. Non manca la nota di colore. Il verdiniano Vincenzo Danna annuncia da lunedì lo sciopero della fame per protestare contro i 5 giorni di sospensione per i gesti sessisti in aula. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E a questo proposito è già arrivato un messaggio di Max al 349-238-6666. Dite al senatore Danna che l'onore di ciascuno dipende esclusivamente dai suoi comportamenti, non dalle decisioni di altri. Il Parlamento non è luogo per oscenità, occorre mostrarsene degni, scrive Max. Adesso passiamo sempre sulla politica alla questione unioni civili. È stato presentato un disegno di legge Cirinna bis per accelerare i tempi, ma Area Popolare, Nuovo Centrodestra, parla di forzatura inaccettabile. Quindi ne discuteremo tra poco qui a Fettonote con il sottosegretario PD Scalfarotto e con la deputata del Nuovo Centrodestra Binetti. Ci sono poi le polemiche sulle spese di Marino, oltre all'apertura di un fascicolo da parte della Procura di Roma. Il sindaco della capitale, Ignazio Marino, pagherà di tasca sua tutte le spese sostenute con la carta di credito del Comune di Roma. Lo si apprende da fonti del Campidoglio. Il sindaco rinuncerà anche alla sua carta di credito, quella contestata dal Comune. In questi 2 anni ha detto: ho speso con la carta di credito messa a mia disposizione dal Comune meno di 20.000 euro euro per rappresentanza e li ho spesi nell'interesse della città, e di questo che mi si accusa, dice, bene, ho deciso di regalarli tutti di tasca mia a Roma, questi 20.000 euro. Estero, passiamo alle notizie dall'estero. Sempre più preoccupante l'escalation di violenza in Israele con diversi attacchi in poche ore. Una donna palestinese ha pugnalato un passante ebreo a Gerusalemme Vecchia, poco dopo un altro palestinese 18enne ha coltellato un soldato israeliano su un autobus. Il terzo attacco della giornata è avvenuto in un centro commerciale e il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto: siamo nel pieno di un'ondata di terrorismo. E poi ci sono i nuovi raid oggi in Siria e l'Italia che si sfila ancora. La situazione in Siria è diversa. Ad oggi la decisione dell'Italia rimane quella di partecipare alla coalizione nell'area irachena. Così il nostro ministro della difesa ha escluso per il momento un coinvolgimento dell'Italia nella lotta anti-ISIS in Siria. Dopo un bilaterale di 2 ore con il capo del Pentagono Ashton Carter, Roberta Pinotti ha anche ribadito che un maggiore impegno militare delle forze italiane in Iraq deve ancora essere valutato in base alle richieste della coalizione o del governo iracheno, sottolineando che un'eventuale decisione passerebbe in ogni caso dal Parlamento. Il segretario di Stato alla difesa Carter, dal canto suo, ha smentito le voci diffuse dal Cremlino di un imminente accordo USA-Russia in Siria, cui mancherebbe solo dettagli tecnici. We believe Russia has the wrong strategy. La Russia segue la strategia sbagliata, secondo noi, ha detto Carter, continua a colpire obiettivi non dell'ISIS e questo è un errore. Bombardamenti quelli russi in territorio siriano che sono proseguiti in mattinata, in particolare sulla provincia di Hama, nell'ovest del paese, colpita questa volta con missili terra-terra. Secondo il Ministero della Difesa russo, dall'inizio dell'operazione militare sono stati colpiti 112 obiettivi dello Stato Islamico, notizie smentite dal governo turco. Secondo i cui dati, delle 57 operazioni aeree russe in Siria, 55 hanno in realtà colpito l'opposizione moderata al regime di Assad. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito dell'ospedale bombardato in Afghanistan durante i raid americani, dopo varie versioni, il presidente americano Obama ha chiamato Medici Senza Frontiere per scusarsi per il bombardamento dell'ospedale appunto in Afghanistan, così ha reso noto la Casa Bianca. A proposito dell'emergenza migranti, invece, c'è stato un intervento congiunto oggi all'Europarlamento della cancelliera Merkel e del presidente francese Hollande. Italia e Grecia non vanno lasciate da sole, hanno detto, e Dublino, l'accordo di Dublino va superato, dicono, e Olanda è tornato a chiedere un'unità di intervento in Siria. Anche di questo ci occuperemo più tardi. E adesso di nuovo in Italia, perché prosegue il dibattito sul rinnovo dei contratti. Se industria e sindacati non troveranno un accordo, toccherà al governo intervenire. Ora è auspicabile che le parti vadano avanti a trattare, anche se non possiamo aspettare in eterno. È il ministro Poletti a chiarire la posizione di Palazzo Chigi dopo lo stop alle discussioni sulla riforma contrattuale da parte di Giorgio Squinzi. Il timore dei sindacati è che venga rilanciata l'idea del salario minimo. Sentiamo proprio Poletti, intervenuto da Expo. Noi avevamo la previsione del salario minimo dentro la legge delega. Non l'abbiamo utilizzata proprio per evitare di aprire un problema a fronte della volontà e necessità che le parti trovino un'intesa. Le trattative aperte devono proseguire. Sono 7 milioni i lavoratori che aspettano il rinnovo, dicono CGIL e CISL e UIL. Non dobbiamo affidare a terzi la definizione del modello contrattuale, dura la Camusso. Siccome il pallone non è quello che voglio giocare io, allora non gioco più e me ne vado. Così dice, rivolgendosi agli industriali. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi, per quanto riguarda invece la situazione a Napoli, sapete, con gli ultimi fatti di cronaca, il ministro dell'Interno Angelino Alfano, nel corso di un question time, ha detto che ci saranno 200 poliziotti in più a Napoli per garantire la sicurezza. Ha detto: su Napoli abbiamo assunto decisioni urgenti. E oggi ad Ercolano, in Campania, due banditi sono stati uccisi in un tentativo di rapina, a uccidere con colpi d'arma da fuoco è stato un commerciante che aveva appena prelevato alcune migliaia di euro in banca ed era stato appunto assalito da questi due banditi. Per chiudere, i Nobel per la chimica, il premio agli scienziati che hanno scoperto la cassetta degli attrezzi, diciamo, definiamo così, che ripara le cellule dentro il DNA. E sull'importanza di questa scoperta poi sentiremo il notissimo genetista Boncinelli. Insomma, moltissime le notizie, vedo anche i vostri commenti, sono su varie questioni, sia al 349-238-6666 sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Dice Marco: chi commette un femminicidio è un vigliacco codardo, e poi ne parleremo, vi dicevo, con un'alta funzionaria di polizia, di che cosa avviene dopo le denunce delle donne. E poi invece Giulio dice: i tentativi di legge sulle unioni civili saranno vagliati, finché saranno vagliate dal Vaticano non si partirà nemmeno. Insomma, tante anche le vostre considerazioni, continuate, intanto c'è la viabilità. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Tra poco ve le ricordo le notizie più importanti e cominceremo anche a trattare con gli ospiti i vari argomenti e poi a guardare anche i vostri messaggi tra poco, sia al 349-238-6666 che sulla pagina Facebook di Effetto Note. Ma se aveste acceso la radio in questo momento anziché puntualmente alle 21, vi ricordo le notizie principali della giornata. Per quanto riguarda la Siria, ancora altissima tensione tra Russia e Stati Uniti. La Russia continua a dire stiamo colpendo obiettivi dell'ISIS e gli Stati Uniti che invece dicono i russi sbagliano in Siria, quindi non collaboriamo. E poi sulle riforme, per quanto riguarda la politica italiana, la maggioranza tiene ma perde qualche voto segreto, passa l'elezione del capo dello Stato ed è caos sulle unioni civili. Nelle Filippine è stato rapito un italiano da 7 uomini armati, c'è stata un'irruzione nel suo caffè pizzeria e c'è l'ombra degli integralisti islamici. A proposito di migranti, oggi all'Europarlamento la cancelliera Merkel ha detto bisogna superare l'accordo di Dublino. Olanda ha chiesto di non lasciare da sole Italia e Grecia. E poi la polemica sulle spese del sindaco Marino, che ha annunciato che pagherà le spese fatte con la carta di credito del comune. E ancora la notizia di cui parleremo anche questo in modo approfondito: la ventenne uccisa a coltellate dall'ex compagno nel catanese. Lui è stato fermato a Milano e ha confessato. Quindi occupiamoci adesso del tema rovente, si può a buon titolo dire, delle unioni civili, perché se ne dibatte da anni senza divenire a nessun tipo di conclusione. Da qualche tempo però ha iniziato il suo iter difficoltoso il disegno di legge Cirinnà, dal nome della deputata del PD che lo ha firmato. Pare che sia il principale motivo del contendere all'interno della stessa maggioranza, quindi tra PD e Nuovo Centrodestra. E per arrivare a una mediazione, almeno questo sembra l'obiettivo del PD e quindi a un'accelerazione dei tempi, è stato depositato questa mattina un nuovo testo sulle unioni civili con la firma di Monica Cirinnà e tutti i componenti dei DEM, democratici, quindi della Commissione Giustizia, che è un Cirinnà bis. Ma la nuova versione di questo disegno di legge Cirinnà è stata contestata dai deputati del Nuovo Centrodestra di Area Popolare, che dicono che è una forzatura inaccettabile. In particolare Maurizio Lupi, presidente dei deputati di Area Popolare, ha parlato di inaccettabile forzatura di cui non comprendo il senso. Dice: allora cerchiamo di comprendere il senso di tutto questo, salutando intanto il sottosegretario alle riforme Ivan Scalfarotto del PD. Buonasera Scalfarotto. Buonasera a voi, buonasera. E la deputata Paola Binetti del Nuovo Centrodestra. Buonasera. Buonasera Binetti. A tutti voi. Buonasera. Allora, Scalfarotto, in che cosa consiste questa e perché effettivamente è stato per cercare una mediazione e quindi accelerare sui tempi che è stato presentato questo nuovo testo Cirinnà? No, questa è soltanto una questione di tipo puramente tecnico, nel senso che quello che si sta, diciamo, una possibilità che si sta palesando è che il testo vada in aula per guadagnare sul tempo, bypassando la fase della commissione. Si dice tecnicamente che va in aula senza relatore. Ora, per poter andare in aula senza relatore, poiché il lavoro della commissione sostanzialmente decade, è necessario presentare un nuovo testo di legge che sostanzialmente tenga conto dei progressi fatti già in commissione. Quindi il testo che ha presentato oggi la senatrice Cirinnà... Mi perdoni Scalfarotto, diciamo sì. Magari a chi non lo sa, la commissione è una specie di laboratorio, ecco, che elabora poi i testi di legge sì. Da passare al vaglio del Parlamento. Sì. No? Diciamo il Parlamento funziona in commissioni e poi c'è l'Aula, sì. Quindi ci sono le varie commissioni affari costituzionali, giustizia, difesa e quant'altro, nelle quali un gruppo più piccolo di parlamentari lavora sul tema, specialisti più o meno della materia, sì. E poi è l'Aula alla fine che vaglia il provvedimento e lo vota. Certo. Poiché in questo momento in commissione ci sono migliaia di emendamenti e c'è un ostruzionismo forte di alcuni senatori, si sta decidendo sostanzialmente di terminare il lavoro di commissione prima del tempo e portare in aula il provvedimento in modo tale che si possa arrivare a una sua valutazione e a una sua votazione. Per questo è stato necessario presentare un nuovo testo di legge che però non porta delle novità sostanziali, nel senso che non si tratta di una forzatura, perché il testo del, diciamo, presentato quest'oggi è un testo che sostanzialmente recepisce il lavoro già fatto in questi mesi in commissione e quindi non ha particolari novità. Ma quali sono proprio degli elementi completamente nuovi? Nessuno. Tale quale quindi? Sì, sostanzialmente, ripeto, è soltanto una questione tecnica che consente di portare in un testo all'attenzione dell'Aula quelli che sono stati i lavori che già la stampa ha seguito in queste settimane, quindi la creazione di questo nuovo istituto che trova le sue radici costituzionali nell'articolo 2 della Costituzione e non nell'articolo 29, quindi quello che riguarda il matrimonio, però assicura una omogeneità di trattamento tra coppie omosessuali e coppie coniugate, così come previsto dalla Carta Costituzionale, dalla Corte Costituzionale, e tra l'altro appunto introduce l'adozione del figlio del partner e la pensione di reversibilità. Quindi, ma questi erano già argomenti che conoscevamo dal dibattito precedente. Allora, onorevole Binetti, che cos'è che continua a essere quella questione dell'adozione da parte del partner, il motivo per cui non siete d'accordo? Diciamo che il collega Scalfarotto ha illustrato molto bene quello che per me è stato un mistero durante tutta la giornata. Io inseguivo il nuovo distesto di legge. L'ha scoperto civiltà. Qua? No, l'ho inseguito in tutti i modi, ho chiamato la Commissione Giustizia del Senato, ho interpellato attraverso gli uffici le persone autorevoli che avrebbero potuto parlarne, ma tutti ne parlavano perché l'avevano letto sui giornali. Ma in realtà, come ha spiegato molto bene adesso Ivan Scalfarotto, non c'è un testo nuovo. Per cui questo mi permette di essere più veloce nella mia risposta, sì, dicendole che le perplessità rispetto al non testo nuovo sono le stesse che avevo nei confronti del testo vecchio, posto che il testo è lo stesso. Cioè? E gliele riassumo brevemente. La prima riguarda il fatto che il disegno di legge fa, pur avendo in premessa modificato la dizione parlando di specifica formazione sociale, considera le unioni civili una specifica formazione sociale, per questo ci aveva ragione prima Ivan quando diceva che fa riferimento all'articolo 2 della Costituzione, pur tuttavia però tutto lo svolgimento dei primi articoli è un rimando costante e continuo alla disciplina del matrimonio. Tant'è vero che la formula utilizzata è questa: prende in considerazione gli articoli del Codice Civile e dice, dove l'articolo dice matrimonio, aggiungere unioni civili. Quindi in realtà fa un'operazione che non è altro che un copia e incolla rispetto alla disciplina del matrimonio. Questo nel linguaggio, nel lessico e nella sostanza. E a me sembra invece che, dovendo essere due realtà diverse, questa diversità andava stressata in modo molto più chiaro e molto più. Ecco, mi dica, onorevole Binetti, lei in cosa li renderebbe anche nelle parole diversi? Ma semplicemente, e questo però mi faccia dire il secondo punto. Sì, prego, scusi. Il secondo punto, perché va nella direzione che dice lei. Certo. Il secondo punto è che il matrimonio, per sua definizione, è un matrimonio aperto alla genitorialità. Quindi aperta alla possibilità di avere dei figli, alla responsabilità di farsi carico di questi figli, e poi anche qui tutta la disciplina riguarda proprio il modo con cui i genitori sono responsabili, di una responsabilità tale da considerare questo un diritto su cui nemmeno lo Stato in un certo senso può intervenire, tanto è fondativo il diritto dei genitori nella cura e nell'educazione dei figli. È evidente che quello che è una delle note più forti per caratterizzare unione matrimoniale non si dà nella unione civile, o se la vogliamo chiamare la specifica formazione sociale. Questa apertura alla genitorialità non può esserci, motivo per cui noi contestiamo quella che è la stepchild adoption. La contestiamo per tante ragioni, ma anche, e non è una delle ragioni più deboli, perché se lei, per essere semplice, se lei pensa a una coppia omosessuale maschile che volesse veramente esprimere da questo punto di vista un desiderio di genitorialità, che però evidentemente si colloca in una impossibilità reale di poterlo soddisfare, l'unica alternativa è quella che conduce poi alla pratica dell'utero in affitto. Per cui anche se la CIRINNA dice che il disegno di legge non parla di utero in affitto, sappiamo tutti che questa è l'unica eventualità possibile che potrà. Onorevole Binetti, in affitto noi siamo totalmente contrari, anche perché è uno sfruttamento della donna, di donne in cattiva condizione economica, in una condizione in cui il bambino viene due volte strappato, e su tutta una serie di. Comunque, lei, onorevole Binetti, ha detto una cosa importante, perché si parla sempre appunto di utero in affitto per le coppie omosessuali, in realtà lei e sottintende, ha riconosciuto senza dirlo esplicitamente, che le coppie di donne i figli in realtà li fanno quando vogliono, al di là di come vadano le leggi. Sono gli uomini che non possono naturalmente avere una gravidanza. Ma questa è una differenza biologica, non è una differenza che pone la legge, né la legge può cancellare una differenza allora, che è strutturale nella persona umana. Onorevole Binetti, avete ancora 2 minuti a testa, veramente, perché ho controllato più o meno i tempi, e cerchiamo di starci così gli ascoltatori e le ascoltatrici hanno pari modo di comprendere le posizioni. Sottosegretario Scalfarotto, quindi questa cosa è il motivo del contendere, questo, che cosa si può fare su... No, però mi perdoni una nota metodologica, abbiamo parlato allo stesso tempo, ma io ho dovuto dare dei fatti perché lei mi ha chiesto dei fatti, l'onorevole Binetti ha potuto dare delle opinioni perché lei ha chiesto delle opinioni. Bene, io vorrei anche il tempo per poter elaborare le mie opinioni, perché io devo correggere ancora sui fatti, il testo c'è ed è sul sito del Senato, si può trovare da oggi pomeriggio, per l'onorevole Binetti. In secondo luogo si chiamano unioni civili e non si chiamano formazioni sociali, come è stato detto, si dice che sono formazioni sociali ma si chiamano unioni civili, che mi sembra un po' più dolce anche se proprio se vogliamo. Ah no, si chiamano unioni civili, però la legge definisce cosa sono, dice sono delle formazioni sociali che sono riportate per dell'articolo, però si chiamano unioni civili, si chiamano unioni civili. Dopodiché, per quanto riguarda la genitorialità, la prima cosa che va detto è che la genitorialità è una fase eventuale del matrimonio e non è necessaria, nel senso che se due persone di 90 anni, un uomo e una donna, volessero sposarsi e chiaramente non potrebbero avere dei figli, nessuno glielo vieterebbe. E quindi diciamo, parlare della filiazione è un aspetto che è fuorviante, perché noi dobbiamo consentire a coppie lesbiche o gay di potersi unire civilmente indipendentemente dal fatto che vogliano avere dei figli o meno. Dopodiché, per quanto riguarda invece le coppie di uomini a cui faceva riferimento la senatrice Binetti, l'onorevole Binetti, chiedo scusa, bisogna innanzitutto tener conto che se noi vogliamo tutelare il bambino dobbiamo sapere che questi bambini che vengono appunto nascono in coppie lesbiche con una inseminazione artificiale, per esempio, o con la gestazione per altri, o anche naturale tra virgolette, se vogliamo dire in certi casi, anche naturale, sono bambini che comunque esistono, ed è una cosa molto pericolosa chiedere ai bambini una specie di patente sul modo in cui sono venuti al mondo, perché io penso che tutti i bambini vadano tutelati, per cui indipendentemente dal modo in cui i genitori li hanno fatti, una volta che ci sono devono essere tutelati, e la nostra legge, la legge alla quale stiamo lavorando, prevede che il bambino che sia nato eventualmente, appunto, come ha detto lei, con metodo naturale o con una fecondazione medicalmente assistita o in altro modo, deve essere tutelato riconoscendo le due figure genitoriali con le quali cresce, perché altrimenti corriamo il rischio che, venuta meno una delle due figure genitoriali, per esempio quella del genitore biologico per morte, il bambino si veda anche strappato dall'altra figura genitoriale con la quale è cresciuto, e questo evidentemente sarebbe a detrimento del bambino, cioè noi andiamo a sanzionare il bambino per un comportamento dei genitori. Mi perdoni, penso sia sbagliata. Quindi non si riesce, Scalfarotto, onorevole Binetti, a arrivare a una mediazione? Quando si riuscirà a arrivare? Che cosa bisogna fare? Che scatto bisogna fare per riuscire a mettere d'accordo la maggioranza, tra l'altro? Non c'è opposizione. Io penso che mettere d'accordo la maggioranza sia una possibilità molto auspicabile, sulla base del fatto che noi, al contrario di molti altri paesi come gli Stati Uniti o l'Irlanda per ultimi, non stiamo introducendo il matrimonio ugualitario, ma stiamo introducendo una forma assai più conservativa, che sono le unioni civili. Quindi secondo me già il centrodestra dovrebbe apprezzare che noi non stiamo scegliendo una forma di avanguardia ma di retroguardia. E su questo, in secondo luogo, su questi temi non è sempre necessario avere una maggioranza di governo. Le ricordo che, o ricordo a me stesso soprattutto, che non so, la legge sull'aborto, sull'interruzione volontaria di gravidanza o la legge sul divorzio sono state introdotte in Italia quando la principale forza di governo era contraria. Certo, l'importante è avere i voti, effettivamente, i numeri. Se avete i numeri, esatto. Quindi magari col Movimento 5 Stelle, questo che cui state pensando. Ma anche con una parte di Forza Italia che esprime delle posizioni, diciamo, liberali di destra. Penso ad alcuni, ma penso al fatto, per esempio, che l'onorevole Carfagna ha presentato alla Camera dei Deputati un disegno di legge che ricordo, non è lontano. Con l'onorevole Concia, allora. Ecco. Senta, chiarissimo Scalfarotto, Binetti, abbiamo 2 minuti, poi mi tagliano la testa, penso. Giustamente, giustamente per la parità. No, come la testa mia. E solo per questo, non perché le taglino la testa. Allora, vedi quello che ha detto Gemma Scalfarotto, in realtà loro chiedono le unioni civili, ma quello che vogliono è il matrimonio paritario, perché nel momento stesso in cui tu poni al centro del dibattito anche il diritto alla genitorialità e il diritto completamente di una assumerti una responsabilità che duri nel tempo con queste funzioni, per cui se uno viene meno che l'altro lo copra. Queste sono proprio le caratteristiche tipiche della famiglia, e noi ci troviamo in una realtà che vuole essere una realtà diversa. Comunque io credo che su questo punto è praticamente improbabile che si riesca a trovare un punto di convergenza, a meno di non espungere il tema della stepchild adoption, e quindi anche da questo punto di vista riconoscere semplicemente alla coppia il diritto e anche in qualche modo il dovere della cura reciproca, e questo possono corrispondere tutta una serie di benefici che sono quelli che ormai siamo tutti totalmente convinti che è giunto il momento di riconoscere alle coppie questi benefici, che conosciamo tutti quanti: il subentrare nella casa, il diritto agli alimenti, la reversibilità della pensione. La reversibilità della pensione, che lì in questo momento è aperta alla valutazione, che spero che sia il più rigorosa possibile, che ne devono fare gli uffici. Comunque la possibilità di sostenersi reciprocamente anche in questo modo. Sono tutte caratteristiche che possono essere riconosciute, ma bisogna mantenere non solo nelle parole, ma dice la differenza. L'elemento di distinzione, e il principale elemento di distinzione di una famiglia è la genitorialità. Chiarissimo, sottosegretario Scalfarotto. L'onorevole Binetti, vediamo un po' come procederà questo iter. Grazie intanto e buon lavoro a entrambi. Grazie, arrivederci. Grazie, buona serata. Arrivederci. Prendiamoci questa pausa, tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ancora i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ilaria sull'argomento delle unioni civili: io mi sposerò, non vedo altre vie di uscita, ma una coppia omosessuale come caspita fa? La burocrazia non perdona, Scenu, dice Ilaria. Ma andiamo sulle notizie più importanti della giornata. L'ennesimo femminicidio di cui parleremo tra poco, e poi nelle Filippine un ristoratore italiano rapito nel suo locale da un comando armato. Unioni civili, ne abbiamo parlato poco fa, ha presentato un disegno di legge Cirinna bis. Riforme, passa l'articolo 21 sull'elezione del capo dello Stato. E poi Nobel per la chimica, il premio agli scienziati che hanno scoperto la cassetta degli attrezzi che dentro le cellule ripara il DNA. Invece andiamo sull'ennesimo femminicidio. Anche quest'anno sono una sessantina dai dati del Viminale, un 3,5% in meno dell'anno scorso. Non è questo grande successo. Questa volta è toccato a una ragazza di 20 anni nel catanese, Giordana Di Stefano. L'avete sentito, è stata massacrata con delle coltellate date alla gola, al torace, all'addome. Gli inquirenti parlano di una ferocia inaudita in questo assassino. Il suo corpo straziato è stato trovato nella sua auto questa mattina. La madre aveva denunciato la scomparsa, e questa povera ragazza, madre di una bambina piccola, nel 2013 aveva denunciato per stalking l'ex compagno Luca, padre appunto di sua figlia. Si chiama Antonio Priolo, detto Luca, di 24 anni, che si era reso irreperibile oggi. Poi gli investigatori l'hanno fermato alla stazione di Milano, stava scappando in Svizzera, e ha confessato. Non accettava l'idea che lei potesse avere altre relazioni. Ne parliamo con Lorena Laspina, segretaria nazionale dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. Buonasera, dottoressa Laspina. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Senta, una domanda che io mi faccio da tanto tempo, che molti si faranno, è da un po' di tempo, per fortuna, le denunce sono aumentate, nel senso che prima le donne avevano vergogna o avevano paura poi di ritorsioni, però quello che ci si chiede è: adesso denunciano di più, ma come abbiamo visto anche negli ultimi casi, hanno denunciato tempo fa, l'ultima aveva denunciato anche di essere quasi stata buttata giù da un balcone, eppure poi è stata uccisa lei, è stata uccisa anche questa ventenne. Che cosa fa una volta le forze dell'ordine, una volta arrivata la denuncia di una donna? Come si procede poi? Come la si protegge? Guardi, non è possibile dare una risposta unica, perché le denunce, come lei può immaginare, sono moltissime e molte tra di loro diversi casi. Quindi ogni caso impone un approccio a sé stante. Ci sono casi in cui i fatti sono ancora meno gravi e contenuti, quindi in un ambito, diciamo, che può essere gestito in un certo modo, ad esempio attraverso l'applicazione di una ben precisa misura di prevenzione che si chiama ammonimento ed è di competenza del questore, e casi invece che richiedono chiaramente degli interventi di tipo diverso. L'ammonimento è stata un'innovazione molto importante prevista nel 2009, che ha dato, diciamo, all'attività preventiva e in qualche modo anche di contrasto su questo fenomeno, che è veramente, diciamo, tremendo, così triste, così peraltro feroce in molte delle sue manifestazioni, una modalità di gestione più flessibile, appunto però a fronte di situazioni di una gravità limitata, perché è evidente che l'ammonimento può funzionare nei confronti di certe situazioni, certo, non di certe altre. Mm. La domanda che fa lei è una domanda ovviamente importante, capisco che tutti se la facciano, altrettanto però complicato è rispondere dando una soluzione. Esistono innanzitutto delle misure cautelari specifiche, anche queste sono state nel tempo introdotte nel nostro ordinamento, soprattutto a partire dal 2001. Nel 2013 sono per esempio l'allontanamento dalla casa familiare, come anche il divieto di avvicinamento a determinati luoghi in cui può, diciamo, normalmente trovarsi la persona offesa o i suoi più stretti congiunti, se ovviamente ci sono delle problematiche legate alla tutela della loro incolumità, che però richiedono, diciamo, ovviamente che già ci sia in atto un procedimento penale a carico della persona. Nel 2013 è stato introdotto anche un allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, che può essere attivato direttamente dalla polizia giudiziaria previa autorizzazione del pubblico ministero, e che quindi anche in questo caso prevede la possibilità di disporre un divieto, oltre che l'allontanamento d'urgenza, anche un divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Sono degli strumenti che, in questo caso nell'immediatezza, negli altri due casi, nel corso dello svolgimento del procedimento penale, danno ovviamente delle possibilità di intervenire in maniera molto seria e anche limitativa nei confronti del soggetto che è stato di determinati. Però mi perdoni, dottoressa La Spina, ancora l'ONU ha detto lo scorso 25 giugno che in Italia è un crimine di Stato questo dei femminicidi. Lei può riconoscere che tutto sommato ancora l'Italia non è all'altezza? Io sono assolutamente d'accordo sul fatto che il fenomeno abbia una portata molto significativa e molto grave. Assolutamente d'accordo anche sul fatto che il decremento di alcuni dei reati che si registra nel primo semestre del 2015 è in qualche modo valutabile in termini di successo o quantomeno di positivo bilancio sul funzionamento di tutta una serie di strumenti nuovi, ma certamente non è la soluzione del problema, perché 60 donne circa, poco meno di 60 donne che muoiono nei primi sei mesi nell'ambito di reati commessi in un contesto familiare o affettivo sono veramente tante, e quindi c'è senz'altro ancora da fare. A mio avviso c'è molto da fare soprattutto relativamente alle strutture di supporto, di sostegno, alle strutture protette, cioè a tutti quei sistemi che consentono di dare una risposta immediata alla persona che decide di denunciare, dandole quindi un'alternativa alla condizione nella quale essa si trova, perché il problema della violenza di genere non è solo un problema di polizia, questa secondo me è una cosa molto importante da tenere presente, quindi l'approccio di polizia repressivo e, come dicevo prima, in parte preventivo, è un approccio che ha dei buoni risultati, può avere dei successi, ma non è l'unico possibile, né l'unico necessario soprattutto. Quindi a parte il cambio culturale, ma sicuramente poi altri strumenti, finanziare anche magari le associazioni che possono occuparsi della protezione proprio quello che delle le dicevo, vittime. Centri antiviolenza e strutture protette, certo, sicuramente il problema che lei solleva, il problema di tipo culturale è, secondo me, e non soltanto secondo me, di rilevanza assolutamente, certamente, strategica. La ringrazio moltissimo, dottoressa Lorena Grazie La Spina. Grazie a lei, grazie, buonasera. E buon lavoro. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E tra le principali, l'ennesimo femminicidio di cui abbiamo appena parlato nel Catanese, poi in Siria, alta tensione sempre tra Stati Uniti e Russia. Per le riforme in Italia, maggioranza tiene ma perde qualche voto, passa il voto sull'elezione del capo dello Stato, caos sulle unioni civili, come avete sentito, e poi un italiano rapito nelle Filippine da 7 uomini armati. Europa 24 notte. E per lo spazio europeo concentriamoci su un nuovo incontro che c'è stato in sede dell'Unione Europea a Strasburgo sull'emergenza migranti. La cosa interessante è che c'è stato un intervento congiunto, un discorso congiunto all'Europarlamento della cancelliera tedesca Angela Merkel e del presidente francese François Hollande. Hanno lanciato un appello all'unità, alla rivendicazione di europeismo e un allarme rispetto al rischio di un ritorno al nazionalismo, no? A proposito dei vari muri, degli egoismi per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti. Allora, è stato diciamo, al di là dell'argomento in sé, che naturalmente continua a essere in primissimo piano, è la preoccupazione principale dell'Unione Europea da un po' di tempo a questa parte, diciamo che questo intervento congiunto ha un alto valore simbolico, perché ricordate nel passato, soprattutto questo asse franco-tedesco, la sintonia tra Berlino e Parigi, che è stato il motore dell'Unione Europea, e sono un po' tornati i due leader quasi a risottolinearlo. Ne parliamo con Antonio Villafranca, responsabile del programma Europa dell'ISPI, cioè l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Bentornato Antonio Villafranca, ciao. Grazie mille. Senti, è vero che appunto al di là del tema immigrazione si ripropone questo asse franco-tedesco? Ma in realtà sembrerebbe di sì, e i temi su cui in realtà Francia e Germania da molto tempo sono in disaccordo sono molti, originariamente sulle sanzioni sulla Russia, più recentemente sulla questione delle immigrazioni, sulla Siria, ma anche sullo stesso futuro dell'euro, dove sappiamo la Germania ha delle posizioni pro austerity, mentre la Francia, ma pro domo sua, ecco, perché ha interessi assolutamente nazionali in questo senso, ha una visione molto più flessibile e vorrebbe ad esempio una eurozona in cui ci fossero dei trasferimenti tra i paesi più ricchi e i paesi più poveri, però è un asse sbilanciato. L'ultima volta che dei presidenti o cancellieri tedeschi e francesi sono andati a Strasburgo è stato nel novembre dell'89, erano Helmut Kohl e Mitterrand, ma in un contesto completamente diverso in cui l'asse era abbastanza equilibrato. Adesso l'asse tende assolutamente verso la Germania, è un asse comunque equilibrato. Quindi Hollande che un po' si aggancia, diciamo, alla Merkel e al suo potere, alla sua leadership in Europa, no? Un po' da spalla. C'è molto di politico in questo, c'è la preoccupazione della Germania sulle elezioni francesi del prossimo anno, per cui quello che è l'establishment, sia questo di, diciamo, socialista o anche se fosse, diciamo, della parte di centrodestra, indipendentemente da questo, ecco, va appoggiato dalla Merkel, perché il vero sparacchio e la vera paura ovviamente è la Le Pen, che continua ad avere grandi consensi. Quindi c'è molto di politico in questo avvicinamento per sorreggersi vicendevolmente, ma ripeto, in una situazione di assoluto squilibrio, perché poi sui dossier importanti l'ultima parola è quella della Merkel. Grazie Antonio Villafranca. Grazie a voi, buona serata. Ciao Antonio. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus. Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2015 Nobel Prize in Chemistry jointly to Thomas Lindahl, Paul Modrich, and Aziz Sanjar for mechanistic studies of DNA repair. Eccoci qui di nuovo con un altro Nobel, man mano in questi giorni assegnati uno dopo l'altro. Abbiamo parlato di quello della medicina, abbiamo parlato di quello della fisica ieri, oggi il Nobel per la chimica. L'avete sentito l'annuncio a Stoccolma dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze. A chi è stato assegnato questo Nobel 2015 per la chimica? L'avete sentito, lo svedese Thomas Lindahl, all'americano Paul Modrich e al turco Aziz Sanjar, per aver scoperto praticamente quella che viene definita la cassetta degli attrezzi, così diciamo è più immediatamente comprensibile, per riparare il DNA che si trova all'interno delle cellule. Questi tre scienziati, questi tre ricercatori hanno praticamente avuto il merito di ricostruire il modo in cui le cellule riescono a riparare i danni che avvengono nel DNA. Ne parliamo con chi se non con Edoardo Boncinelli, genetista e divulgatore scientifico notissimo. Professore, buonasera. Buonasera. Quindi queste loro scoperte si dice che hanno aperto la strada a nuove cure anticancro soprattutto. Ma come succede spesso, il premio Nobel per la chimica è stato dato in realtà alla biologia, alla biologia molecolare, che naturalmente è chimica, ma è chimica vitale. In realtà quello che è successo è che in tutte le nostre cellule noi abbiamo il DNA e amiamo pensare che sia bello, tranquillo e a riposo, ma è continuamente percorso da una serie di alterazioni che possono essere dovute al fatto che si replica oppure al fatto che ci sono degli agenti esterni, come esempio i raggi ultravioletti. Se la cellula non facesse nulla, noi non arriveremmo praticamente da nessuna parte. Fortunatamente le cellule riparano in continuazione, anche 100 volte al giorno, il proprio DNA, con un centinaio di meccanismi. Tre di questi più importanti sono quelli che sono stati studiati dai tre premiati e che rappresentano, diciamo, il 50% dei modi di aggiustare il DNA. Potrà essere applicato questo? Beh, intanto può essere applicato dal fatto che questi meccanismi sono controllati da geni che conosciamo e quindi si può predire una certa disposizione. Per esempio, chi è molto sensibile ai raggi del sole e che deve stare attento. In quanto poi a riparare, come noi sempre speriamo, i danni spontanei dentro il nostro corpo per diminuire l'incidenza del cancro, secondo me ci vorranno ancora diversi anni. Purtroppo, professore, però come al solito ci vogliono tanti passi, tanti step, come si dice a livello internazionale, ma prima o poi si spera di arrivarci. Intanto questa è stata una grande scoperta, non per niente hanno meritato appunto il premio Nobel. Grandi lavoratrici, insomma, queste cellule, dice, anche 100 volte al giorno si riparano, e questo meccanismo l'hanno scoperto questi tre scienziati. Professore Edoardo Boncinelli, io la ringrazio moltissimo. Ok, grazie. Grazie, buonasera. Bene, adesso abbiamo ancora un po' di tempo per dare un po' di spazio ai vostri messaggi, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete e dovete aderire senza indugio, e poi anche al 349-238-6666. Ringrazio Furio per il suo messaggio. Poi dice un altro ascoltatore: Roberta, quella legge, non quella dell'Unione Civili, non è una priorità, ci sono altre emergenze più urgenti sull'economia, la si può fare alla fine legislatura, anche se, insomma, si dice non è urgente, non è urgente da parecchi anni, alla fine forse è meglio finalmente che arrivi un po' alla sua conclusione, che si mettano d'accordo. E poi ancora c'è un ascoltatore che dice: ma ogni giorno migliaia di persone muoiono, vengono stuprate, torturate, noi abbiamo qui una marea di gente che si preoccupa di fare le pulci a gay e coppie di fatto. Poi Massimo da Roma: se Marino propone di risarcire, ammette la circostanza di aver usufruito della carta di credito del comune, in tal caso si deve dimettere senza appello. E qui siamo di nuovo su Marino. E poi ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook. C'è Adelmo che dice: è possibile, sia così difficile permettere alle persone di farsi i fatti loro e amare chi vogliono? A questo punto ci dobbiamo lasciare, ci ritroviamo giusto alle 22.